l'amatissima amapola, sarà sempre mia alma, tu mi assola. Io ti chiedo, amada bella mia, di qual amada flor della luce del dia. Amapola, bendissima amapola, la creia sta ingrata, mi ama me. Amapola, amapola, come puoi tu vivere tan sola? Bellissima amapola, non sei tan ingrata, mi ama me. Amapola, amapola, come puoi tu vivere tan sola? Amapola.